fischia, avanti. Che fischia? Avanti, che fischia? Hola. diciamola, non sto lì a accendere l'alimentatore, fuori. Tiro sul salvavita, si accendono prima gli alimentatori, dopo qualche minuto accendo le radio, perché anche gli alimentatori hanno bisogno di entrare in tensione bene, non è che tu accendi l'alimentatore e tu accendi subito la radio, oppure c'è qualcuno che lascia l'alimentatore e la radio accesa, accende e si accende pure la radio. Non va bene fare così, capito? Già lo so. Bisogna lasciarlo qualche minuto. Comunque già andata bene, dai. Oh, già sta che rientro giù che sono mezzo. In baraonda sono. Quando ho finito poi entro, ok? Sì, ma in effetti ci dovrebbe fare così, ci dovrebbe fare. Ehi. Vai, Anto, c'è qualcuno che ha detto qualcosa sotto, non so chi è. Avanti. Vabbè, non fatti dire. Ti ho sentito a te, non ti ha fatto niente. Vabbè, ci sentiamo dopo il turno, già sono qua a distanza, io intanto sto facendo cosa. Sì, ok. A dopo, dopo. E dovrebbe funzionare. Ma simile a quello che ti avevo dato io. No, qua non c'entra niente. Guarda, stai girando il trimmer, che cosa sta succedendo, capa? Aumenta, ma vai a strappare, forse è troppo alto, boh. Addirittura, è micidiale questo circuitino, guarda così invece. Perché non so qual è, capito? Ci sono dei trimmer, vedi un po' se migliora. Questa è bella, questa è chiara, forte. Figurati, sto usando un microfono normale, guarda che sto continuando a girare il trimmerino. KK123, però aspetta che ho il Mikey anche a 9. Adesso ti porto il Mikey a 2, prova, sì, sto uscendo, ok? Sì, sto uscendo. Vabbè, anziché metterlo a 9, mettilo a 5, a 6. No, il macchinino adesso è a 3, aspetta, il macchinino è a 2 della radio. Sto provando il trimmer. Cosa succede girando questo trimmer? K? Niente? No, non noto nessuna differenza, però la modulazione è molto bella, chiara, forte. Ora prova, vediamo un po' togliendo il compressore. Allora, adesso tolgo il compressore e vediamo un po' ruotando il trimmer cosa succede. Prova, perché non mi rendo conto, capito? Da qua. Prova, non so se sta aumentando o se sta diminuendo. No, non ha fatto niente, poco fa invece ho notato una variazione allucinante, un bel forte era, infatti stavi quasi andando a strappare, non so cosa stavi toccando. No, toccando il trimmer. Guarda. Aspetta, allora, andiamo un po' girando. Girando questo trimmer. E questo, e dovrebbe essere questo però quello dell'amplificazione. Perché ne ha 3. Ora, prova. Ehi, a quello lì è. Questo l'hai toccato adesso. Questo l'ho toccato adesso, no? Sicché anche chiudendo questo qua non succede niente. Guarda, adesso dovrebbe essere aperto. E così è chiuso. Appena basta, ma lasciali tutti e tre aperti. Vero. Allora, li lascio così. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. 1, 2, 3 prova col processore inserito, K. Col processore inserito, vale un MC60. Fase, puoi registrarmi. È allucinato questo circuitino. Figurati se lo metto all'MC50, questo circuitino è una bomba. Ma aspetta, te lo dico io quando sono pronto, perché io sono col baracchino, vabbè, ma questo 3009 c'è una bella ricezione. Aspetta, ti dico quando parlare. Vai, parla. Allora, prova, sì, sto uscendo, perché lo devo chiudere bene anche il microfonino. 1, 2, 3, prova di modulazione. E anche il wattmeter mi dà comunque dei picchi buoni per essere un microfono normale. Ah, bella radio, veramente, complimenti, ottima radio, vale un 60. Aspetti quando la fa. Certo, allucinante, bubu. Guardati cosa sto usando, e guarda il circuitino che ho. Circuitino alimentato a 9 volt tra l'altro. Ma sono questi i microfoni che vanno. Io non sto usando il microfono normale con questa radio, vabbè, questa è un po' modificata. Ti sei ascoltato, hai visto in radio? È allucinante, Giudì, tu. Guarda che microfono è però. Se io questo microfonino lo attacco così a questa radio non spinge niente, perché non è un microfono amplificato. Ma cazzo, gli ha messo quel circuitino e va bene. Sei a Puglia, figuriamoci a metterlo in un microfono amplificato. Non ne ho palmari però di questi, non ne ho altri. Va bene però, bella radio, bella corposa, poi vabbè io sto ascoltando con la 3009 che non è dei migliori, ma anche col K è una bella radio, bella corposa, bella forte. È un po' un casino per trovare quelle connessioni, non è una cosa facile. Che stavo uscendo di testa e poi volevamo saldati altri due fili insieme della radio e col microfonino. Perché praticamente il circuito è messo tra la radio e il microfono, capito? Allora, vediamo se sono tutti aperti, così li lascio stare, al limite mi costruisco una scatolina per metterlo dentro, oppure lo metto all'MC50. Guarda a vedere, allora, guarda che cosa sta succedendo adesso, così? Così deve andare, come stai modulando adesso, le posizioni che stai modulando adesso deve andare. Però ti ho girato un trimmer e non mi hai dato nessuna differenza a quanto pare. Allora, così in una maniera che non so se è chiusa o aperta, così è nell'altra maniera. No, così lo devi lasciare questo. Allora, tutta a destra sono aperte, allora questa è mezzo chiusa, aspetta. Guarda, prova. Così dovrebbe essere tutto aperto. E così dovrebbe essere tutto chiuso. Ehi, lascialo aperto, aspetta che c'ho il microfono, non sta andando bene. Lascialo tutto aperto così. Allora, in questa posizione qualcuno ha detto non cambia niente, mentre questo qua, ecco, e questo è tutto lo stesso girato, prova. Ce n'è uno che non cambia niente, però gli altri già cambiano, ma voi già se cambiano. Chi è Gianni che è entrato? Non lo so, Allora, con questo hai detto che non cambia niente in pratica, così è chiuso, così è aperto. Buonasera a tutti, no, stavo ascoltando, a me sembra che non cambia. Già, stai attento, già cambia. No, c'è uno, a due secondo me cambiano poco, ma l'altro che hai toccato cambia un break. C'è un break, aspetta a vedere chi è avanti. Ciao capo, non sarà ben ascoltato. Va bene. Comunque ti conviene metterlo così, poi se c'hai la voglia di metterlo su quell'MC50 che hai revisionato, dovrebbe essere una schioppettata con quel circuitino. Infatti pensavo che mi metto adesso e lo metto lì, così posso usare il 50, anche perché dovrebbe andare benissimo con la capsula che ha il 50 con questo circuitino. No, il tuo non l'ho neanche provato, perché ho detto dove cavolo vanno collegati i fili qua, un casotto. Aspetta, dai, fa entrare, che intanto mi prendo il 50. E già i fili pronti, c'è la calza che è già saldata, devi saldare dove va la calza, e gli altri due al rosso e al nero, o se era rosso e giallo, ho staccato così io, non è difficile a collegare, poi se lo inverti, no, perché quello funziona molto bene col circuitino. Ciao Gianni, buonasera. Ciao, buonasera anche da Ruginito, buonasera Claudio. Buonasera, non ho capito, ho già fatto un circuitino a parte. Sì, un circuitino preamplificato per un microfono normale, esce molto bene. No, io non avevo seguito acceso in questo momento, comunque la differenza tra uno e l'altro io non la noto. Sembra che non cambi, poi magari lontananza si sente di più, non lo so, però io la noto così. Avanti, Chioda Ruginito, buonasera. Sì, sei più, un po' più forte, dai. Anche se ti sento con radio più forti, Non sei riuscito. Adesso sì, forse ho premuto male. Sta telefonando qua. Diciamo che quella che ti ho sentito più bene io, il tornado, con quella vai bene. Sono simili al presidente, come sono fatti, sono molto umili. E infatti l'ho presa per divertirmi nel 45, non l'ho presa per fare casino qua, vedi che la uso chiusa. Dopo ti mando la foto, vai già. Ho detto, quella lì sta bene in macchina da me. Ah, sto diavolo, ma lo vedrai tu. La massa te ne varia, che. Ah, è vero che non ce l'hai più, l'era 48, cazzo, te l'hai venduto. Questa è una bella radio. Questa è già della tua, però è tutta rossa, anziché blu. No, anziché sì, vabbè, tu ce l'avevi blu, mi pare, non mi ricordo. Tutta rossa, pomelli, si illumina tutta questa, tutta rossa, rossa, rossa. Però un 3009 Colt, dai. È una bella bestiolina, c'ha 3 watt regolata con picchi da 40 Gianni. Capito? Va bene, dai. Riprendi già, fai girare. Sono arrivato a Bulos dalla macchina da via Giovanni Paschi, va bene, anche quello che ho fatto io l'impianto, comunque diciamo avere una radio così potente in macchina è meglio, perché ti sento lì. Capito? No, non ne uso. ce ne sono un bel di camionisti con queste antenne col mozzo, con la bandiera sarda, capito? Va bene, avanti Claudio, ci sei, sei rientrato? Che te la devo dare, ma qua Sassari. Sì, io già me l'ho dal 3009, non tornavo al 4005, se si aveva già capito che me l'ha dato, non lo dire però, va bene, avanti, doppio rum. Adesso me lo faccio fare anch'io il mio, che fa? Basta fartelo fare. Ti consiglio di mandarlo a Ciccio Cobra o da Mr. Bambo, che in questo momento sono i migliori, non lo dare in mano a Caimani, capito? Se lo devi fare consulta a Gigi o Massimiliano, perché sono i migliori. Ciccio Cobra è molto bravo, Mr. Bambola è molto bravo, questo l'ha fatto Mr. Bambola ed è una canonata veramente, è gemello del 3009, solo che è un Tornado 5005, capito? Molto completo, molto bello, già l'ha visto Claudio, ha visto tutti i pomelli illuminati, cra. tutto illuminato, molto bello, veramente molto bello, è pompa, questo è poco pompa. E io me l'ho preso per quello, mi sono rotto le palle di stare indietro agli altri. Io sono un CB come gli altri, quindi mi voglio divertire come gli altri. Me l'ho preso, adesso quando c'è propagazione, ma avevo le 45 e ci divertiamo. Poi adesso era un po' di giorni spento, però ho detto oggi le dedichiamo un po' di modulazione a farlo scaldare. Va bene, avanti già. E io poco fa ero con la Germania sul 37. E si sentivano per furti, eh. E copiato Claudio a Chiorgi. Questo originale c'ha 240 canali, AM, USB, AM, FM, USB, LSB, tutto c'ha, tutto completo. C'ha la NL, c'ha un filtro micidiale, proprio veramente molto interessante. Completo di tutto, tutto c'ha. Secondo che macchianza mia moglie arriva, Ehi, vabbè. Anche il garage si può fare così, modificato. Ce l'aveva Ginko così, modificata con quattro forte. Cambia microfono, fai qualcosa, sì, tutto a tratti. C'è anche Luca Flipper comunque qua, rilancialo. Luca, aspetta, stavo controllando una radio, dai, riprendi tu già, cosa mi stavi dicendo? Non me ne ricordo più. E ho detto, c'è un po' di casi, Claudio, così come c'hai il 3009, puoi fare anche il casi, lo sai, ce l'aveva Emanuele, quello lì andava bene. Galaxy, lo sai, ci tengo quanto ci tieni tu. Stamattina mi sono preparato le maniglie perché c'erano dei graffietti, le ho tutte levigate, domani mi metto giù, capito, perché oggi c'era brutta giornata, lo stesso domani sarà un po' più buona, giù dove ho la moto, ho fatto dei gancetti per appendere le cose, per spruzzare, ecco, la bomboletta, ho già la bomboletta nell'opacco, mi faccio i maniglioni nuovi, così è nuova, già quella deve lavorare così in originale. Già c'ho questa io per divertirmi. Oh, una basta e avanza. Capito, quella la lascio stare così, già non conviene. Eccomi, sono ritornato. Lui. Ciao Bombolo, buonasera. Ma Luca, dove sei? Riprendi tu già, che sono... sto messaggiando un attimo. Claudio! Uia! No, Claudio, occhio da Ruggito. Lo senti l'eco del Galaxy, Claudio? Questo qui è l'eco originale del Galaxy. Sta cambiando il radio, nel sito stava cambiando il radio. Ah, sento qualcuno sotto, sento. Ehi, anche io sentito. A parte chi vuole entrare? No, devono essere camionisti, devono essere o propagazione. Cavagliato. Non lo so. Attone, a me cosa mi racconti? Questo lineare è aggiustato. Cosa? A posto, cioè, mi sei trovato con la gambella per caso. O se ce l'hai sempre così? Ah, mi sto usando questo, non va bene. Lasciato così, devo vedere un po' che mare aggiusti va. Che mare va, chissà cosa. E vabbè, ma pigli va. Ma è lineare o è la radio? Secondo me è l'amplificatore, perché vedi che non ha fatto più nulla. Quando sto usando 747. No, l'amplificatore già, no, non c'è niente con la radio. Io l'ho avuta, è una bellissima radio. Vedi che con 747 va bene. È una cannonata con 747. Sì, a volte in cambio per migliorare per giurica. Luia! 747 è stato sempre un bel lineare, l'ho scoperto io, l'ho usato tanto tempo, poi se l'aveva preso Antonio, se l'hanno preso loro, poi tutti quelli che hanno visto che andavano bene, se l'hanno pigliato tutto. E già scoperto una parola grossa. Il primo 747 l'ho avuto 5 anni fa io, 5-6 anni fa, ne avevo preso un altro addirittura, e poi l'avevo venduto e avevo preso quello, il 757, già lo sai. Sono lineari che vanno molto bene, e io ce l'ho uno, ne avevo due, uno l'ho dato a Antonio Riserva, che le serviva per campagna, buono lo so, ma uno ce l'ho sempre, c'ho il 747, c'ho il B300P, poi vabbè c'ho quelli valvolari e l'LA1000, capito? Sono molto buone Antonio, ti ho detto non lasciare mai la strada vecchia per la nuova, usa quello che va molto meglio di quell'altro, tranquillo, senza problemi, e non cambia niente, anzi ti dirò, anche con questo baracchino qua che è molto preciso, sei leggermente più avanti del 20, quindi secondo me sta andando anche più watt rispetto all'altro. Lo credo che sono più avanti. Sì, questa è una cannonata, Oh, veramente, guarda, soddisfattissimo, ti dico. Ma ne ho anche un altro Mineo, che funziona bene lo stesso. Uguale 747. Gappa. No, adesso sto usando questo perché è una cannonata, è buonissimo, No, non li posso dire l'incontrario, non li posso dire. E questo qua secondo me spinge anche di più di radio. Via! Tu stai parlando qualcuno, no? Cosa, Anto, scusa, che stavo messaggiando al telefono, rispondendo a voi, vediamo un po' se è rientrato Claudio. Claudio, rientrato? No, sto cercando qualche radio da mettere lì sotto i denti. Va bene che va bene. Ehi, Anto, ti ha già detto, non te lo dico più. Non lasciare mai la roba vecchia per la nuova, perché come ho detto Gianni, poi si va a peggiorare invece di migliorare. 747 è un signor linearetto, funziona bene, dà i suoi watt, ti permette di dare qualche punto in più al segnale con questi baracchini che stiamo usando, capito? Quello là è un lineare molto particolare, molto, molto diverso da quello. Se funziona bene dà il doppio dei watt di quello lì, ma se poco poco è messo male non si vede nulla, capito? Mio nuovo, io te lo attacco e ti faccio vedere gli scatti che funzionano, però è dentro l'armadio, lascio stare lì, preferisco quello che ho messo, dai. Va bene, che mi serve per fare due chiacchiere nei 45. Capo, se te l'ha fatto qualcuno per non controllare, ma vedi se chissà cosa c'ha, che male va, tranquillo dai. Tranquillo dai, non ce n'è gente, stavamo parlando anche l'altro giorno, Marco, ti ricordi di queste cose, no? Non ce n'è gente che fa questi lavori, non so cosa dirti, io se ero capace te l'avrei controllato alla grande, ma io non capisco un accidente, no? non è lavoro per me, posso farmi due stronzate nelle cose mie, ma no, assolutamente non capisco niente, l'unico che te lo può controllare è Vittorio Giove, capito? Ci passi, glielo fai vedere, glielo dici, magari è una coglionata, però sempre da controllare da uno che conosce la componentistica, che c'è la strumentazione per poter fare le cose. Qui sei in Brencio, Anto, ti do un consiglio, non lo dare in mano a nessuno, se no invece da contarlo da Gabbi. Non so, qualcuno che se ne intende deve essere. Beh, qualcuno che sa fare quelle cose lì, per dire Gigi Vulcano, Massimiliano, qualcosa la capisce sicuramente più di me. Gente che quelle cose lì le sanno aprire, sanno controllare, sanno vedere cosa c'è, capito? Ma no, non lo duca tu però, dallo a gente che ne capisce. Io sinceramente di baracchini non so manco dove si aprono, non li ho mai aperto, non li ho mai toccato che non ne comprendo un accidente. E anche le altre cose, non è che posso registrarmi un trimerino, una cosa, sempre sotto gli occhi di qualcuno che l'ha già fatto, ma io non li posso di nuda, non ti ho capito. Adesso lo facciamo controllare, ho portato un pugno, me lo controlla lui, perché non è sobrio. Ah Gigi, dallo, ti ho detto, dallo a Gigi Vulcano e te lo fai controllare. Capito, lui lo attacca alle sue radio, già gli strumenti e te lo fai controllare. Cappa, vabbè, ma per lui andava bene. Cosa c'entra? Non c'entra niente, da lui andava bene, non ho dubbi che andava bene, però magari nel tragitto o in qualche prova è successo qualcosa, non è che se te l'ha dato guastano, non sto dicendo quello, però può darsi sia successo qualcosa, quindi siccome lui lo conosce, glielo dai a lui e te lo fai controllare da lui, no? Mi sembra chiaro. Sì, adesso appena che glielo scendo glielo faccio vedere un po'. Strana cosa. Niente, sono elettore che è così, no? Io mi ricorderò sempre per quanto campo, ho smesso di modulare prima di cena con la radio, ciao a tutti, a domani, cordialità, saluti, baci e abbracci, cazzo la mattina vado a accendere la radio e non la sentia più, se vuoi ti dica, è così purtroppo, è così. Vabbè, qualche fusibile. No, non è fusibile, ha partito il finale di recessione. Oramare. Senza far nulla, no, giusto là dove lo va a vendere, domani non verrebbe recessione, hai capito? Quindi anch'io pensavo colonnina, qui, là, nulla. Portato a controllo dal medico, allora c'avevo il mio medico personale e mi ha detto, caro mio, sono partiti i finali. Ma come cazzo hanno fatto a partire i finali se ho spento la radio che stava funzionando? Ho spento prima la radio, poi ho spento l'alimentatore, addirittura non c'era temporale, non c'era niente, insomma, i finali sono partiti, io so che ti dica. Ciucciucciucciu. Avanti a te! Buonasera a tutti e due. Ah, buonasera! Buonasera a te voi due. Sono dei belli. Ciao Antonio. Avanti già! Io stavo scherzando, non c'è problema. E allora, mi diglielo Antonello. Antonello, ma puoi controllare il B300, a vedere se funziona questa cosa. Tipo 200 perché sta facendo. Boh, non esce di vato, cosa c'ha? Ma che non cambi niente dal motore si blocca là, qualche problemino ce l'ha. Vabbè, salivelo. Quando sali il bicchiere 50 per fare quella modifica, la faccio anche la B300, così almeno siamo a posto. Cappa, lo vedi un po', anche se puntano le marce, perché, insomma, perché a me mi sembra che non funziona nulla. No, facciamo quello e l'altro lo lasciamo stare, perché c'è un altro 747, cosa me ne importo? L'altro già va bene, dai. avanti break. Sì, ciao, come va Claudio, tutto a posto? E vabbè, sono salito sopra, visto che ha diminuito il vento, ho girato un pochettino il palo, la verità, e quindi siamo a posto. Dopodiché ho sistemato l'antenna della TV, l'ho messa come si deve, e dopodiché mi ha chiamato il capocondome e mi dice, ah, vado a vista, sono partenza, ho fatto un turno, poi salire, incoinarsi, eccetera, eccetera. E io ho risposto, ma ce la fai dopo il mio cognome? Tanto l'ha pagata io, che cazzo mi rompi i coglioni, ho detto, a certo punto. Io ho detto, la sacco, detto, me la porto a casa, a certo punto, allora è stato zitto. No, lasciala stare, fai quello che devi fare, ha detto. Però dice, stai attento, detto, guarda che, detto, il vento è diminuito, detto, se no non sarei stato così scemo, se sarei messo a parte a certo punto. Grazie a Dio, ci detto, se tu mi hai conosco come... A certo punto. KK di Roggio, dai, facciamo andare anche questo, se no si inceppa, ma io c'ho un muretto. Quello tocca, Questo è il mio murettino 140. Non voglio fare molto col microfono in mano, ma mi rompo le balle, non è che la radio l'ho presa proprio per divertirmi su 45, boh, no, per fare corso così, però ogni tanto bisogna farlo andare. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Io sono tu da Repetra. Mi sa che me lo riprendo di nuovo un 140, non so, adesso vediamo un pochettino, se ne trovo su internet me lo riprendo, me lo metto da una parte, almeno ce l'ho, è una cosa bella, la verità. Prego. Avanti. Sì, ciao, ho sentito di Sugi, tanto è Claudio, poi chi c'è? L'ho appena acceso. C'è Claudio, che era l'originista, e poi gli altri, non so, non mi ricordo che la verità che sono. Allora, ciao, mi senti tutto avanti, il muro, su lei che è più lontano, Claudio, avanti a te. E 15 abbondante, radio 5 forte. Ok, chi c'è anche torre di controllo? Avanti a te Claudio. Nulla. Poi chi c'è? Per te, Antonio. Ehi, ci sono anche io. Certo, mi sentite anche a te. Ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato. Ehi. Ciao Roberto. Anche Gianni, ciao Gianni. Ciao, buonasera, dai. E siamo tutti qua, dai. Cosa vuoi fare? Non si può uscire per freddo. Che caga non puoi stare in questo tempo di campo, adesso c'è stato il bel vento. L'ho sentito a casa, un po' si sentiva sbattere qualcosa, almeno ha piovuto oggi stasera, stamattina presto una falda d'aria, l'ho sentita molto forte la pioggia, comunque speriamo che finisca quanto prima. Fine settimana prossima ho visto le temperature salgono di parecchio, anche 18 gradi, per cui speriamo bene, dai, che cazzo questo inverno maledetto, almeno l'acqua, posso capire il freddo, ma l'acqua è esagerata, dà fastidio, e prende un bel di danno, poi non parliamo del vento, cosa ha combinato. Ok, di nuovo muro su a te e poi fai girare. Finlandi. Benissimo, se non si mette in mezzo questo qua, che ho sentito uno che mi sembra che c'è in banda laterale, tu come mi senti a Muros? Kappa, vuol dire che punge questo affare. Kappa. Ogni tanto si mette in mezzo a questo, si mette, quindi non ti interessa, cioè, molte volte sento un'interferenza, dai. Lasciamo il bianco però, così vediamo chi c'è. È propagazione ragazzi, non è niente, nessuno che caccia fra Mugolano, ci è sollevata la propagazione di Golgo. Quindi anche a me dà difficoltà, sia a lui che a me, dà difficoltà. Perché lei a Mura si arrivano per 5, però sa. No, no, non c'è nessuno che caccia fra Mugolano, è solo la propagazione, ragazzi. Non è niente. Avanti Gianni. Io Claudio, se per me ti arrivo a Muros. KK, dai. Sì, posso andare ma che ci tappa dalla potenza. Prova. Sì, 8 e mezzo, una ora di 5. Ho staccato. Ma va bene lo stesso. E a tutti con queste potenze esorbitanti siete, cavolo. Ok, chi c'è rimasto poi qua? Qualcun altro tra quelli che abbiamo nominato? C'è qualcuno che vuole entrare su 10? Lasciamo un attimo in bianco, se no il mic è a torre di controllo. Avanti. Arrivo subito, 2 minuti che stavo uscendo un attimo da mezza meta. E allora avanti Claudio. Claudio, adesso ha aumentato il power della radio, guarda se ha cambiato il segnale. Perché ce l'avevo tutto chiuso, capito? E adesso non c'è nulla attaccato, ho aumentato solo il power. Io lascio un attimo di bianco, però se poi riprendete voi, se no... Già, va benissimo, guarda, sui 9.20 con tutto il power è aperto. Fantastica, bella, pulita, ordinata, non c'è bisogno di attaccare più di nulla, senza stare abbassa, tanto siamo qua, se poi dovesse capitare che entra qualcuno da fuori, ha bisogno di potenza, allora regoli e attacchi. Io sto andando con esattamente 10 watt, figurati tu, poi appena acceso 140, anche ghiacciato, e poi è un bovaraccio, adesso lo metto la coperta, sì Claudio, stai andando benissimo, per me quella è la migliore che hai, senza offesa con le altre, però con questa esci molto molto bene. 9.20 segnale qua sul K, radio super 5, avanti Antonio Bombolo. K, purtroppo io sono un pochettino più in basso, però cavolo, non ho problemi, lui mi arriva a 8, mi arriva e va bene dai. Abbastanza bene. Grande. Anche per me Claudio, gliel'ho detto anch'io a Claudio che questa è la migliore radio che c'ha. Anche il Funi allora va bene, perché questa è una bella radio. Questa qua è la gemella di quella che ho io, con la MB più 5. No, no, sto facendo bello chiaro e forte, il segnale ultimo, niente da dire. Ok, questo è la 12, che è quello che stavo ascoltando, provando stamattina, là ho fatto delle regolazioni, però non c'è di tu per sapere il livello microfonico, se va bene, giusto è come livello. Sì, va bene, sento un po' più di medio basso, ma va bene. No, ma dico rispetto al solito, a 60, è più alto o più basso? No, è uguale come potenza microfonica, però 60 equivale sugli acuti, capito? Questo c'ha più tonalità medio bassa, ma va bene lo stesso. Sì, no, vabbè, si può anche perfezionare, dai, mi sono ascoltato in cuffia, ho fatto un pochettino di cosa, però sarebbe bene farsi ascoltare da un altro, così ti dà i rapporti migliori, più fedeli, dai. Ok, chi c'era poi qua? Claudio, vediamo se Claudio Di Muro si ha cambiato radio, avanti per fare il cambio. Nulla, vai Gianni. Io sto facendo solo delle prove, non è che volessi attaccare, ne sto facendo delle prove, perché non avevo provato chiuso e aperto il gas, col power chiuso e col power aperto, invece cambia da 5 watt, va a 9 watt, e cambia qualcosa di segnale. No, non va bene, già, faccia tutto così, non avere problemi di attaccare fa segnale qua, è ultimo. Hai visto, passi da 8 a 9C, cominciare a lineare, cosa io faccio la mangio il braccio, che non so per massimo. La sua potenza è viaggio alla grande, oggi abbiamo un po' fatto girare un po' di radioline, dai. Ho fatto girare il sommergibile, il vabbè il braccio è sempre acceso. Poi faccio andare un po' il Midland 574 lo stesso, da tanto non lo faccio andare. Poi voglio usare il pugno a vedere se c'è differenza tra la mia e quella di Claudio. Vediamo un po' se ha cambiato radio, muroso. Ecco, vai, io devi giambare l'autotreno, che devi sganciare l'articolato, battacca un baracchino. E prendi tu, bombo. Alzi via la cosa, mi ha dato, non è il gioco. Capa. Ieri, stamattina, mamma, ha detto. Ci mi ha rimproverato coso. E ha detto, potevi dirmelo, dice che era, stavo ascoltando sul 23, non comprendeva nulla, Natalino. Vuoi il mio parere? Ottima radio, ottima modulazione, ma il Boni è più alto come tonalità microfonica, esce molto più forte, vero già? Sì, è vero, ma sono belle tutti e due. Sì, sì, bella anche questa, però quella va a parlare, è più forte come radio, ma non c'ha il Mickey Gain, il Boni non ha il Mickey Gain, ma spinge molto bene, l'ho provata con il MP5 che sono a canonata. Avanti, Roberto. Sì, vero, questa è meno forte, anche se leggermente più chiara, c'è meno, come sa, meno acuti, cioè l'altra più neutra, però l'altra spinge un po' più forte, più da combattimento. Belle tutte e due, però questa è forse un po' più fedele come modulazione. Benissimo, ti ascolto bene, il segnale più o meno sempre lo stesso, la radio è 5, va bene. Sì, sì, ma niente da dire, per carità, è un'ottima tonalità, un'ottima radio, però preferisco il Pony, c'è un quel tocco in più da combattimento che a me piace, degli acuti, bella forte, sì, va molto bene. Comunque, è chiaro, il Tornado, anche se è un veicolare superiore al Boni, con 23 canali, così, quindi la radio vintage, però ti ripeto, il Boni fa il suo lavoro, va molto molto bene. Avanti Roberto. Ehi, no, se vuoi far sentire il tuo, il Boni, claro, per tanto per curiosità, poi più o meno saranno uguali, dai. Aspetta che commuto sull'altra scrivania, tanto sono già tutti collegati, il microfono ce l'ha già attaccato, devo solo commutare, aspetta, avanti già, riprendi. Ehi, no, esce bene il Boni è superiore, ma di poco, è molto bello anche il Tornado, il Tornado c'ha una radio limpida, bella. Va benissimo anche quello. Sì, sì, sì, MB più 5, poi 23 canali. Sì, sono molto. Con lo stesso microfono siete qua. Sì, sì, no, io c'ho solo MB più 5, esclusiva. Il Turner più 3 ce l'ho sul Galaxy e gli altri sono tutti MB più 5, tutti. No, no, bella modulazione. Forse vabbè, c'è una voce completamente diversa dalla sua, più ricca di bassi, però è bella, chiara, niente da dire. Non so, avevamo già provato, infatti a Gianni gli ho detto come devo fare per togliere l'adattatore. Sì, ho fatto quella sto usando quell'adattatore simile al tuo, capito, però è provvisorio, così volante, devo fare una cosa fatta bene, e te l'ho detto cosa faccio, uso il connettore del coso e metto direttamente lo spiralato già pronto del microfono della Gain, tanto quello della Gain non lo uso, poi se lo devo usare glielo riaggancio, sono due saldature che devi fare, non è niente. Ok, avanti Gianni, c'è differenza tra me e lui col Pony? È più forte questa o la sua? Sono uguali? Com'è la situazione? Più o meno siete uguali, dai. La timbrica cambia, Claudio, lo sai, la timbrica è diversa, però con la sua rimane più squillante, come timbrica la tua, per la corposo. Vabbè, lui grida anche, io no. Io sono a 20 centimetri, 30 centimetri dal microfono, bello rilassato nella poltroncina, va bene così. Allora andiamo con questo pony, dai, così lo facciamo scaldare, poi magari il commuto al 574, al Midland, che anche quello c'è una bellissima radio. Avanti, bombolo. Capo, una cannonata, con l'apparecchio, Capo, stamattina cosa mi ha riproverato? T'ha capito bello bene che ti faccio, perché dice che niente, sta ascoltando sul 22 ore, sul 23, non lo so, natalino, dice che devi sbattere in tutti i canali, non comprendi nulla. Tu abituatevi, io ho il massimo rispetto per Roberto, Roberto ce l'ha per me e con Antonello. Quando siamo così uno vicino all'altro non ti puoi permettere di allontanarti dal canale, devi seguire Anto, questo è il motto che abbiamo sempre usato tutti, ma quando tu sei sul 10 e lui è sul 23, siete attaccati, è chiaro che vi splatterate, dovete cercare di trovare un accordo, ma non dico tu e lui, ma chiunque, capito? Chiunque, perché non va bene. È successo anche l'altra volta che Luca era qua nel 10 e nel 12 c'era un altro QSO e lui non capiva un accidente. Sicuramente non si fa per male, però quando si è vicini bisogna conviverci con le radio, altrimenti ne nasce un casino. Io mi ricordo, povero Mao, con Gio Maria hanno vissuto una vita attaccati, eppure non hanno avuto mai un problema, perché così la realtà è quella. Avanti muro, so. Allora cambio baracchino di nuovo, metto il 574, ok? Si è andato a rispondere al telefono. Questo è il 574 della Midland K. E vabbè, i microfoni sono tutti uguali, non è che cambia molto, no, questo è il 574. Questo è quello che mi hai dato tu, va molto bene, sono contentissimo perché è perfettamente funzionante. Va molto bene anche in banda laterale, centratissimo, veramente una bella radio. Avanti Gianni. Io oggi di cambiare la radio non la girai sulla gamba, le ho cambiate ieri, oggi non ne ho voglia, sto con la mia chicca. Già, ma io non ho viaggio il attacca e attacca, non devo fare niente. Io devo fare due passaggi, commutare da una scrivania all'altra e poi col commutatore, quello grande, commutare.